GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Alle 12.15 ancora un cordiale buongiorno da Daniele Lettigi e Armando Mucchino, voi con le notizie della TGR del Friuli Venezia Giulia. In apertura la pagina del tempo, nuvolosità variabile sulla regione, le temperature registrate alle 11, Trieste 10 gradi 5 decimi, Udine 9 gradi e mezzo, Gorizia 8, Pordenone 7 gradi e 5 decimi, Tronezzo 4 gradi, Tarvisio 3 gradi e 5 decimi, Forni di Sopra 3 gradi e mezzo, Biancavallo 1 grado e mezzo, Sappada meno 2 gradi. Sullo Zoncolan meno 1 grado e 5 decimi, sull'Ussari meno 3 gradi. Tornando sulla costa, grado 7, Lignano 5 gradi e 5 decimi. Queste le previsioni per le prossime ore. Sui monti cielo poco nuvoloso per velature, sull'alta pianura da poco nuvoloso a variabile, su bassa pianura e costa da nuvoloso a coperto nel pomeriggio. Lo zero termico in giornata salirà oltre i 3000 metri di quota con inversione termica nei bassi strati, possibile presenza di nubi basse nel fondovalle tarvisiano. In alcuni paesi delle valli del Natisone, dopo settimane di emergenza, gli abitanti non si fidano ancora a bere l'acqua dei rubinetti e scoppia la querela per una presunta richiesta di aggravi finanziari a carico degli utenti. L'acqua è ufficialmente tornata potabile nelle valli del Natisone, prima nelle frazioni di Savogna, poi il 15 novembre nelle borgate di Pulfero. Lo ha stabilito l'azienda sanitaria come previsto dalla legge, ma in qualche caso l'odore di idrocarburi non è andato del tutto via. Così, ad esempio, a Mersino Alta alcune decine di residenti, quasi mezz'ora di auto da Cividale, da alcuni mesi con la strada più veloce parzialmente chiusa per lavori dovuti a una frana. Alcuni sentono ancora una puzza, seppur attenuata, altri invece percepiscono un sapore dolciastro. Fatto sta che qui i più non si fidano ancora di berla o di utilizzarla per cucinare. Si va avanti con le bottiglie d'acqua minerale, perché con la chiusura dell'emergenza è stata interrotta la distribuzione dei sacchi da 3 litri di acqua potabile da parte di CAF, il gestore del servizio idrico, distribuzione che molti qui vorrebbero fosse ripristinata. CAF, da parte sua, ha attivato l'assicurazione dopo aver individuato la causa. Una manutenzione sbagliata da parte di un ente terzo di una pompa dell'acquedotto con un possibile errore nell'applicazione di un solvente. Questo ha comunicato il direttore generale di CAF, Massimo Battiston, durante un incontro con i residenti di Savogna di un paio di settimane fa. Tra di loro gli abitanti della frazione di Jeronizza, che hanno detto no a una recente pulizia all'interno della rete domestica offerta da CAF perché non hanno accettato la clausola secondo cui si sarebbero dovuti far carico loro di eventuali lavori idraulici successivi. Mersino, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Continuano alla centrale di Malnisio gli appuntamenti dello Science Festival Consigli per l'Uso. Una finestra sul presente, sul futuro, all'ex centrale idroelettrica di Malnisio, in corso l'ultima giornata del Malnisio Science Festival, che è una 3 giorni tutta dedicata alla scienza, con l'assessora del comune di Montereale Valcellina, Eleonora Gobbato, ideatrice, coideatrice dell'iniziativa. Chiediamo qual è il cuore di questa 3 giorni. Sì, il cuore di questi 3 giorni è una finestra di 72 ore sulla scienza, sulla tecnologia e declinata nelle varie sfaccettature. E quest'anno parliamo di Humans, consigli per l'uso, quindi vogliamo mettere l'uomo al centro di una rivoluzione, quella tecnologica, ma anche quella ambientale, e come questa rivoluzione tecnologica possa in qualche modo influire sulle nostre vite. Ultima giornata, allora quali sono gli appuntamenti da non perdere per questa chiusura? Allora, tutti i relatori sono molto bravi e merita la pena sentirli. Parleremo ovviamente di intelligenza artificiale, di giornalismo e come il giornalismo possa essere influenzato anche da queste nuove tecnologie, e di fake news, la nostra è una, diciamo, un life motive del nostro festival, e anche soprattutto parleremo di cielo, di astri, ma anche come la tecnologia del futuro possa essere utile per la salute e per l'alimentazione. Malnisio, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che sarà celebrata domani, il Comitato 10 febbraio invita a ricordare Norma Cossetto e le altre donne che subirono violenza e furono infibate dai partigiani comunisti. E ora la maratonina di Palmanova, sentiamo com'è andata in questo servizio. La mezza maratona di Palmanova se la giudica Nyomukiza Jean-Marie Vianney del Burundi con 1:03:29, 2 minuti sopra il miglior tempo di sempre qui. Sono arrivato ieri dall'Africa, se mi danno un'altra possibilità, l'anno prossimo batterò il primato, le sue parole all'arrivo ai nostri microfoni. Prima tra le donne, l'etiope Bezelot Tades con 1:13:24. Vittoria al photo finish sull'amica rivale bresciana Sara Bottarelli, 3 centesimi di secondo dietro. Condizioni ideali per correre, arrivo al tepore del sole, 3 gradi alla partenza. Piazza Grande a Palmanova gremita di podisti, appassionati e famiglie. In 2009 al via per l'edizione competitiva, tornata sul percorso tradizionale alla sua 22esima edizione. Alle 9:45 le prime a partire sono le carrozzine delle persone con disabilità accompagnate dalla Onlus Amici di Diego, votata a dare loro un sorriso. Poi è stata la volta dei pattinatori. Alle 10 lo sparo che ha dato il via alla corsa, oltre 2000 i runner da 17 nazioni. Il cuore di Palmanova si riempie della leggerezza di centinaia di palloncini rossi poco dopo, contro uno dei più gravi problemi sociali. Il messaggio dei 500 della marcia non competitiva da 5 e 10 chilometri e basta alla violenza contro le donne. Palmanova, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Si è avvalso di interviste agli ultimi testimoni ancora vivi il libro Cronaca di un misfatto, in cui è raccontato l'omicidio di 2 donne avvenuto a Udine nel 1944, che non venne mai considerato dalle autorità inquirenti né denunciato da nessuno. L'opera verrà presentata a Udine al Circolo Novi Orizzonti in via Brescia alle 20. Autori del libro Elisa Meloni, figlia di uno dei protagonisti della vicenda, e il docente di storia dell'Università di Udine Paolo Strazzolini, a cui abbiamo chiesto il motivo che ha spinto in indagare una vicenda rimasta finora nell'ombra. In questo caso convergono 3 direttrici, perché da un lato c'è Elisa Meloni, che è l'autrice, diciamo, principale della ricerca del volume, che di fatto arriva a un certo punto della sua vita con la necessità e l'esigenza di portare alla luce la storia della propria famiglia e quindi della sua origine. E tutta questa direttrice si incrocia con la grande storia, perché comunque si tratta di un macabro episodio che capita nel corso dell'ultimo anno della Seconda Guerra Mondiale in Friuli, e punto numero 3 di fatto è una questione anche etica, nel senso che colpisce proprio che, sebbene in quello che conosciamo essere il clima di una guerra, figurarsi una guerra mondiale, viene compiuta una ingiustizia che per le condizioni in cui si verifica rimarrà impunita. Avete dovuto compiere molte ricerche d'archivio per farle emergere? Certamente, molte ricerche d'archivio che continuano, perché è comunque una tesi quella dell'autrice, che va difesa in continuazione, perché si tratta sempre di questioni che rimangono molto delicate e dove spesso si cerca di far scivolare il punto di vista sull'ideologico, mentre così non è, perché è una realtà assolutamente umana. Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono 5 i racconti finalisti del Premio Letterario Nazionale Caterina Percoto, appuntamento biennale che celebra il talento letterario e il legame con la terra friulana, organizzato in onore di Caterina Percoto, la contessa contadina di Soleschiano. Da quest'anno il riconoscimento include una nuova categoria per i racconti creati con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Premiazione a Manzano, nell'antico Folle d'Or Boschetti della Torre, alle 17. Ed ora alcuni appuntamenti di spettacolo. L'attrice Cristiana Capotondi sarà protagonista di La Vittoria e La Balia dei Vinti a Trieste al Politeama Rossetti, in sala generale alle 16. Dopo lo spettacolo l'attrice parteciperà alla presentazione del libro Se mi manchi è più bello, brevi storie per colmare la distanza, di Marco Bonini, al Caffè Rossetti alle 18:30. La Lingua Virale è lo spettacolo tratto dal libro di Diego Marani, che sarà rappresentato a Trieste al sempre a Rossetti, in sala Bartoli, alle 17. I testi partecipanti alla competizione letteraria per drammaturghi aspiranti, tali Drama Slam, saranno improvvisati a Trieste all'Hangar Teatri alle 17 per la chiusura del festival per le nuove drammaturgie e la traduzione Worlds Behind, Translating Borders. Un panzer che piange in silenzio, lo spettacolo esito di un periodo di studio sul tempo presente di un gruppo di appassionati di teatro, sarà in scena a Trieste al Teatro Miela alle 18. La 10ª edizione della rassegna Fila Teatro proporrà la prima regionale di Tutti per Uno della compagnia Molino Rosenkranz a Maniago al Teatro Verdi alle 16:30. Lo spettacolo per bambini Bob e Singer, Salviamo il Natale, sarà in scena a Trieste ad Hangar Teatri è andato in scena questa mattina, scusate. Lo spettacolo invece di Conta Storie, Pupazzi, Canzoni e Immagini, Senti che Musica, di e con Fabio Scaramucci, sarà rappresentato a Prata di Pordenone al Teatro Pileo alle 17:00. Questa era la nostra ultima notizia per questa edizione delle 12.15. Ha collaborato in redazione Samantha Gon, per la parte tecnica Viola Romanese e Caterina Cabrelli. Da Daniele Letis, Maria Spezia e Armando Mucchino, grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.